Allora, io sono particolarmente emozionata per questa serata. Comunque, il collettivo ZAM, il progetto West Climbing Bank, questa sera ospitano il nostro caro amico Armando, che ha avuto la grande possibilità, non così facile, di trovarsi qui. Lo abbiamo conosciuto nel 2017 grazie alla collaborazione col centro culturale LEILAC, che opera nel campo profughi di Deisha subito fuori Betlemme, e abbiamo creato insieme questo progetto di arrampicata. Siamo scesi più volte, abbiamo fatto dei corsi con i ragazzi e le ragazze del campo, abbiamo insieme a loro costruito e migliorato una parete di arrampicata che hanno proprio sul tetto dell'associazione. Siamo andati a Batir a costruire delle vere e proprie vie di arrampicata e appunto Armando fa parte di questo centro culturale e negli anni è diventato un vero e proprio amico. Credo sappiate più o meno tutti e tutte com'è la situazione al momento. Anche in West Bank non è sicuramente facile. Lui poi probabilmente vi racconterà cosa significa muoversi anche solo da Betlemme, andare a Gerico e poi uscire dalla Cisgiordania. Quindi è veramente importante il fatto che lui sia qui stasera, non così scontato. E si trova qua per presentare un nuovo progetto che sta portando avanti con altre persone in West Bank, in Cisgiordania, rivolto principalmente a Gaza. E niente, ora lascio la parola a lui, così vi parlerà di questo progetto e vi racconterà quindi poi che cosa sta facendo, come lo sta facendo e se vorrete fare anche domande, ovviamente lui è libero. Questa è una cosa che aggiungo io personalmente. Ricordiamoci che è ovvio che siamo curiosi, avere persone che arrivano direttamente da quel luogo è una cosa molto preziosa, però sono sempre comunque ovviamente esseri umani, quindi abbiamo anche la delicatezza di porre le domande in un determinato modo perché sono estremamente coinvolti. E, niente, lascio la parola a Armando. Good evening, buonasera. As she mentioned, my name Armando. Palestinians who's living in the Haitia camp for refugees. First of all, I want to thank ZAM organization, Casabella Bacci, West Climbing Bank, and all of you to having us here in this event. And thanks for coming also. I'm gonna say a little bit for people who's never been in Palestine to can understand very well what's the situation now and how it's become. Questo non va? Voleva ringraziare ZAM, Casa per la Pace, West Climbing Bank per aver organizzato questa serata e per essere qui, che appunto lui arriva da Deisha, che è un campo profughi che sta fuori Betlemme, e ringraziare tutti voi di essere qua stasera presenti. My voice is loud. So yeah, as I mentioned, it's about the situation in Palestine. For people who's coming to Palestine, surely they saw by them eyes, but people who's abroad, they are just hearing stories and informations. And some of this information is not clear or understandable to can understand the situation in daily life in Palestine. probabilmente fra le persone qua presenti c'è già qualcuno che è stato in Palestina, ma magari invece ci sono alcune persone che non ci sono state e quindi non è facile comprendere e capire che cosa sta succedendo e com'è la situazione, e anche le informazioni che riceviamo non sono sempre facili da tradurre e comprendere. So Palestine before it's occupied in 1948 it was belong to Arab community, Arab countries. Since 1948 the Israelis came by British occupation, it was occupied Palestine and put a hand on a land of Palestinians in north Palestine, which is now Tel Aviv. You can hear this name. I'm sure you know it, because they didn't mention any Arab village or city. It was before. Everything is changed. Just Jaffa, Akka, Yaffa, which is a stand of Tel Aviv now. Yaffa, it's called Tel Aviv. This happened in 1948 as a mascaral. Groups, militant groups from Israelis, supported by British, came and killed Palestinians people, forcing transfer from them villages, from them homes, to the middle of Palestine, which is Jerusalem and around, continuous to Jericho and Jordan, or by the seaside to Lebanon and Syria. Prima del 1948 la Palestina appunto era Palestina, da questa data in poi la Palestina è stata ufficialmente occupata principalmente grazie all'aiuto della Gran Bretagna e da queste truppe militari ebraiche che hanno praticamente, arrivando dal nord, sono scese, hanno forzato, uccidendo le persone e costringendo tutte le altre a dislocarsi da città come faceva l'esempio. Tel Aviv è un nome che conosciamo più o meno tutti, ma prima il vero nome era Jaffa e adesso è praticamente un'estensione di questa, è rimasta come estensione di questa città, e quindi hanno forzato tutte le persone che abitavano nelle città palestinesi a muoversi verso Gerusalemme principalmente, verso Gerico. E dimenticato qualcosa. So yeah, and this happened by power. As a Palestinians in the history, never we had armed or army, classic army. Most of the families, they are working farming. And I remember one story from one factory in Palestine. It's called Mercedes. You know the company Mercedes. They was shipping 400 box of orange, because Yaffa, it was famous by orange. They exchange it with German to bring one car. They have to send 400 box of orange as a Palestinian. And even Golda Meir, the first prime minister of Israeli's government, she was holding a Palestinian passport. And you can check it by Google. If you search by Google about Golda Meir, you will find her holding a Palestinian passport. This is to answer a question or an idea of the Israelis is land without people for people without land. It's very easy, very clear. And this is them speech, not our speech also. They hold our Palestinian passport, not we was holding Israelis passport. Prima del 1948, adesso credo di aver, spero di aver capito bene, non c'erano fabbriche di armi, erano dediti molto al commercio, soprattutto all'agricoltura, e c'era questa fabbrica che si chiamava Mercedes e inviava da Jaffa alla Germania 400 scatole di arance. E un'altra cosa che sottolinea il fatto che prima fosse Palestina, cioè sempre stata Palestina, è anche il fatto che c'erano i passaporti, le carte d'identità palestinesi. Golda Meir è stata il primo ministro, una dei primi ministri dello Stato di Israele, e prima che fosse fondato Israele, possedeva un passaporto palestinese, quindi non erano loro ad avere il passaporto israeliano, ma il contrario, prima del 1948. Was changing 400 boxes of orange to get one car from Mercedes. Ah, facevano lo scambio delle arance con le auto. So this kind of massacres happening since 1948 until 1967, continuous all this year, to push more than 700,000 Palestinians abroad of Palestine. Questo è accaduto fino al 1967 per praticamente espellere e mandare fuori dalla Palestina più di 700,000 palestinesi. So after that, in 1967, it happened the 6 days of war. It's called Arab War against Israel. And this war was, the Arabs was losing this war in 6 days. So the Israelis pushed the rest of the people who was transferred from land 1948, coming to Jerusalem or around, to the Jordan, which we call it in Naxa, which is the second transferring for the original people who was left them village in 1948. E poi nel 1967 c'è stata la famosa guerra dei sei giorni, durante la quale c'era Israele contro buona parte del mondo arabo, che ha perso, e in quel momento Israele ha forzato tutto il resto delle persone che erano rimaste dal 1948 in poi nelle terre non più considerate palestinesi, le ha forzate verso la Giordania, e questa è chiamata Naxa, ovvero il secondo dislocamento della popolazione palestinese. La prima era la Nakba. So in that year, in 1967, was involving Jordan, Syria, Lebanon, Iraq, Egypt in this war. And these five countries lost the war in 6 days. So that was disappointed for the Palestinians. Is six countries against or fighting a small group of Israelis, and they lost the land and more people, Palestinian people, transferred from Palestine to abroad, some of them to Egypt or over the world. So why I'm telling that, it's to understand the history, how it's became, or how it was, and how it's became now, and what's happening, or the result, or the effect of 7th of October last year. I'm telling that it's because of the Nakba, the catastrophe, it's continuing and playing from the Israeli government, Israeli agenda, to reach us to this point. Quindi nella guerra dei sei giorni c'era Israele contro Giordania, Egitto, Siria, Iraq e Libano. E hanno perso, è stato un grosso momento di sconfitta, perché Israele di fatto in quel momento era anche molto piccolo, però risultato molto potente, e quindi ha creato una grande delusione. E Armando ci sta dicendo tutto questo per farci capire in che situazione siamo arrivati, cosa è successo, che ha avuto luogo molto prima rispetto a 7 ottobre, e che quindi è una Nakba che continua ad andare avanti dal 1948, che non è quindi iniziato soltanto questo 7 ottobre. So between all these years, since it's happened 1948 until the 7th of October, in between there is hundreds of actions it's happened. which is pushing the people to resist to have them rights, like in the first intifada, in the second intifada, when they attacked the Ibrahim Mosque in 1997. So all these actions, it's happened in Palestine without mention from the all the international, as a Palestinian have the right to fight or defense for themselves and them lands. And all this history, 75 years of resisting, fighting for our rights, it's stopped in 7th of October, and we start to be like, from the victims to a fighter, not a fighters, from victims to be, we are a terrorist as a Palestinians killing Israelis. Nel mezzo, in tutto questo periodo, dal 1948 in poi, ci sono state varie anche azioni di resistenza palestinese, la prima intifada, la seconda intifada, c'è stata anche, ci sono stati fatti del 1997 al Khalil, a Hebron, riguardanti la moschea, e quindi ci sono stati diversi atti di resistenza palestinese che hanno dichiarato il diritto di questo popolo di resistere e affermare la propria esistenza nella propria terra ben prima del 7 ottobre, ma il 7 ottobre è come se segnasse un cambiamento da vittime a terroristi. Un'altra cosa, in tutto questo, cioè in tante di queste situazioni, comunque anche dalle voci, diciamo, mainstream dall'estero, non è che si dicesse sì, i palestinesi hanno il diritto di resistere. Cioè, almeno questo io ho capito che lui ha detto, che comunque in molti casi il supporto internazionale non è stato così. Esatto, non è stato. And also to didn't forget, okay, this is the, like an action in the ground, but also we have from the Palestinian side, I call it political Nakba, political mascarals, when PA or PLO decided to sign Oslo Agreement. So this is completely made the Palestinians disappointed to get them rights back or to stay longer, fight for them freedom and for them lands. E poi c'è la Nakba politica, che quindi riguarda gli accordi di Oslo e tutta la delusione da parte dei palestinesi della possibilità di vedere riconosciuto il proprio diritto e anche quindi riappropriarsi delle proprie terre. So we reached 7th of October, and what's happened? I know it's not funny. I know it's very complicated to understand why Hamas and the resistance group in Gaza did this in 7th of October. And most of you like hearing some information, seeing some videos, some media stand by with the Israelis telling the Israeli stories, and some or very few, they mention about the fact of those groups did 7th October. E così siamo arrivati al 7 ottobre e sa che non è divertente, perché possiamo aver visto cosa è successo il 7 ottobre sui media, su vari video, e che alcune persone magari hanno appoggiato il punto di vista di Israele e si chiedono perché alcuni gruppi abbiano fatto queste azioni, o appoggia invece i fatti che sono avvenuti il 7 ottobre e chi li ha portati avanti. So the decision of 7th October, now it's clear from the informations we received from Gaza. The decision it was taken because of Palestinian case around the world, it's disappeared. No one take the responsibility from the authorities around the world to give the real dream of Palestinian to be a state, or to make Oslo agreement succeed and give independent state of Palestinian. This point it was disappeared from over the world. The population start to be far away from Palestine. This is first. Second, in a day after of 7th October, it was decision in Israeli parliament to attack Gaza and to force people to do as they did in 1948 in a way to make a canal, water channel from the Red Sea to the Mediterranean Sea. It's the opposite of a Suez Canal in Egypt, as an economical way, and take the gas under the ground of Gaza's land. Sono diverse le motivazioni che hanno portato al 7 ottobre. Di sicuro c'è la prima, che riguarda la completa sparizione rispetto a quelli che erano stati gli accordi di Oslo della creazione di un vero e proprio Stato palestinese. Questa cosa non è mai più stata menzionata da nessuno a livello politico. C'è il fatto che la popolazione si allontanasse. Credo di aver capito questo io. The second was the population start to be sì, di lasciare la, no. Lui dice che, da quello che ho capito, che è arrivata un'informazione che c'era un piano e c'era una proposta proprio all'interno delle istituzioni israeliane di fare questo canale proprio nel mare di fronte a Gaza, che poi arrivava fino al Mediterraneo, per prendere il gas dal mare di Gaza e portarlo poi all'estero. E per questo motivo comunque c'era una decisione di svuotare Gaza della popolazione, o comunque di rivendicare e di riprendersi, cioè di prendersi Gaza. No. Ah, ok, questo è stato deciso dopo. Io ho capito che, da come l'ha detto lui... You can repeat a little bit. Yeah, the second reason is, in Israeli agenda, they was planning to open a canal of water. It's like Suez Canal water for shipping to make more pressure on Egypt to didn't pay these ships to Egypt, so they are broken in economic. But the Israelis, they can control this canal and own more money. And also in this area, or in this land, there is a huge tank of gas, natural gas. They can take it easily when this land is under control of Israelis. E quindi c'era una vera e propria agenda, c'era un piano di fare pressione sull'Egitto, che in qualche modo non stava effettuando dei pagamenti e non stava onorando degli accordi che riguardavano, se ho capito bene, delle navi. E quindi l'intenzione era di fare questo canale via mare, per poi controllare a livello mercantile l'area e poi sfruttare il gas naturale che si trova sotto il mare di fronte a Gaza. The third reason, it was after 17 years of sieging Gaza from the last war in 2007, and when the Palestinian shrink in the authority like Hamas, they controlled Gaza, and PA, Palestinian Authority, control West Bank. There is It was no hope after 17 years, to rebuild Gaza and give aid for people in Gaza, because it's sieged and controlled by Israelis. So people there was very disappointed from the promises given from the international governments, and PA was very weak to send any aid to Gaza. So people there, they start more under pressure for accepting the daily life they are facing. So this is also one of the most reasons make the political parts there and the armed parts or wings to decide to make the 7th of October. E l'altra motivazione è il fatto che le persone cominciavano a essere veramente stanche di essere sempre divise e schiacciate da questa divisione di Hamas a Gaza, l'autorità palestinese in Cisgiordania, e che comunque in un modo o nell'altro non facevano i loro interessi, continuavano a essere schiacciati dall'embargo, dall'essere praticamente in prigione, e quindi per questo si sono sentite portate, per scardinare un po' questa quotidianità oppressiva, ad arrivare al 7 ottobre alle sue azioni. And the fourth reason and the last reason, it was the Arab countries deals and normalized with the Israelis. It was a huge campaign between Arab countries to normalize the relation with the Israelis and sign a peace agreements and normalize agreements and exchanging education, economic extra for all those neighborhoods countries, including Saudi Arabia. And I will tell you why Saudi Arabia is the much important for Israelis to sign agreement with them. In a religion way, how the Israelis using as a Jew, if they get a sign from Saudi Arabia, that means they are approved from Muslims, which is presented by Saudi Arabia as not a famous, is the only Islamic country can speak about Muslims, 2 million Muslims around the world. They are agreed to normalize the relation with the Israelis. So now they are illegal, the Israelis are illegal to make any contact with any Muslims around the world. So that's why it's very important for the Israelis to make the contract with the Saudi Arabia. E la quarta motivazione riguarda il fatto che negli anni si sono molto normalizzati i rapporti tra tutti i paesi arabi e Israele a livello anche commerciale, ma il più importante che va sottolineato è quello con l'Arabia Saudita, perché dal punto di vista di Israele e della sua legge legata anche alla religione, il fatto di avere dei contratti sottoscritti dall'Arabia Saudita, che è visto come il maggiore paese musulmano, è come avere appunto il certificato di poter fare legalmente tutto ciò che vogliono, perché l'Arabia Saudita è con loro, e quindi c'è questa normalizzazione e legalizzazione di qualsiasi cosa da parte loro. So 7th October happened, and I'm sure 100% even Hamas didn't expect it's happened like this. They entered like this settlement easily. They broke in the control. They broke in the high technology of security. And I'm sure they was shocked from the result. But this is not the point. The point is after 7th October, Hamas was, I think, was expecting 1 month, 2 months, like fighting with Israelis, and this is finished. But what we found after is Israelis, they didn't react as normal reaction. It's like, okay, we faced attack and we need to attack back for a while, killing like leaders of Hamas, destroying some buildings, like some training centers for Hamas, and this is finished. We found it's planned this before, as Hamas or other groups thinking the Israelis want to come inside Gaza and destroy everything, and this is what's happening now. And this is what the Israelis approve it from the first week of the attack. Of, I cannot say it's a war, because war, it's between two powers. But I'm sure Hamas or other parties, they don't have that power as Israelis have it. So The Israelis approve it's planned before to push the people leaving the side, the north side of Gaza, to work of them dreams, to take the land and do them project as well. Nemmeno Hamas all'inizio, dopo il durante il 7 ottobre, si aspettava di riuscire ad avere questa libertà di azione, di irrompere nelle colonie, di sfondare il muro, insomma gli sbarramenti che confinano Gaza. E in realtà all'inizio si aspettavano come reazione una reazione abbastanza istantanea e veloce, che durasse al massimo uno o due mesi, come è già successo in altre situazioni. Nessuno si aspettava che invece Israele reagisse in una maniera così duratura e continuativa, e che perché il vero piano, penso di aver capito che era già stato deciso da prima, era quello di entrare a Gaza e fare in modo di spostare man mano, oltre che distruggere, spostare tutte le persone in modo tale che non avessero proprio più niente anche da poter da ricostruire. Sì, è importantissimo, scusate, diciamo guerra, ma in realtà non è il termine adatto, perché appunto di solito una guerra è tra due potenze più o meno equiparate. Di sicuro Hamas e nessun altro gruppo, partito che sia, ha la stessa potenza militare che ha Israele, per questo non è giusto chiamarla guerra. So after this days and days and days, now around 7 months of bombing Gaza, the last statistics it said 34,200 martyrs, 80% from them they are kids and women. We have north side of Gaza, 70% they are completely destroyed. Middle of Gaza, almost they are destroyed, like 60% of middle Gaza. And we are waiting Rafah, the south part, which is now hosting more than 1.5 million person who's disappeared from north to south. And this is long story now to expect what will go on, because last report I wrote it 1 week ago. It's Biden have two choices now from Netanyahu, or to attack Gaza, or to open a big war with Iran. So this is what we are afraid from. And I think he already took a permission from Biden to attack Gaza or to enter Rafah under the human rights law, you know, to respect the human rights law. This is a big joke, by the way. I hope it will not happen, but it seems it will happen soon. Dopo 7 mesi di guerra sono più di 34.000 i martiri in Gaza, l'80% sono donne e bambini, e il 70% del nord di Gaza è stato completamente distrutto, e il 60% nella fascia centrale, e più di 1 milione di persone sono state sfollate a Rafah, che si trova nel sud al confine con l'Egitto, e adesso si sta aspettando una decisione che è diciamo sotto il permesso, la collaborazione con gli Stati Uniti, con Biden, e le possibilità sono due: o entrare militarmente da terra a Rafah, oppure ingaggiare una guerra contro l'Iran. E lui ovviamente lo diceva con grande sarcasmo ed ironia, che tutto però andrebbe fatto sotto l'attenzione del rispetto dei diritti umani. I don't want to take hours from you because I can't tell you now thousands of the stories coming from Gaza. But I will take some questions about Gaza if you want, if you in your mind. After that, I will shift to the West Bank because even though West Bank is much worse condition now than Gaza. Lui, se volete, potrebbe anche raccontare svariate storie su Gaza. Se avete delle domande, lui è ben disposto a rispondere. E inoltre vuole spostarsi anche sulla West Bank, perché anche lì la situazione è nettamente peggiorata. Sa. La tengo al microfono, ma se ricordo sono con un altro. Chiedo scusa, ma. Da ricordo che vuole fare domande. Sono avvicinato. Prego. Sì, innanzitutto grazie. Conseguenze negative del conflitto siano abbastanza sotto gli occhi di tutti. Tu riesci a indicare qualcosa che possa essere interpretato come positivo dal punto di vista palestinese, come un risultato positivo a seguito di questo attacco del 7 ottobre e di tutto quello che è successo dopo? Un bilancio di questo conflitto fino ad oggi. I may try in English. I think the bad consequences of this conflict are quite obvious for all of us. We have been following the situation, so we know how many victims there have been and the consequences in terms of economics, etc. You will tell about this later on, maybe. But do you see any positive outcome from the Palestinian perspective after 6 or almost 7 months of war? Anything that we could see as a positive outcome of this bullshit that we are witnessing? And to be honest, I cannot see the positive. Even we are living in hope day by day, especially in Gaza. In West Bank, we are normalize our life daily for the Israeli attack. But in Gaza, why I don't see the positive coming soon? First, the majority, I can say 100% of the authorities around the world, they don't give a shit to stop the war on Gaza. I cannot say conflict because this is not conflict even. It's like a mascarades. It's ethical alliances. It's mascarades. It's, you can name it what you want. So also Palestinian Authority didn't do anything. They are silent since 7 months until now, officially or unofficially. They do nothing. And front of the politicians or the governments abroad, PLO, and which is Palestinian Liberation Organization, and PA, Palestinian Authority, they are the representative of the Palestinians in Gaza and in West Bank. And they are not working anything to push all these governments to didn't even support Israel with the weapons, to stop supporting Israelis with the weapons and continue this war. So this is the first. Second, we saw all the NGOs, organizations, who's named themselves human rights organizations, aid organizations, I don't know, all this shit. I start to be clearly, I was believing deeply in these organizations, and I worked years to present human rights organizations. But after what's happening now in Gaza, they cannot enter one bottle of water. The food start like to be a gun on Gaza's people. Women's rights, kids' rights, I don't know. All these organizations do nothing, affect nothing on Israelis, even just to pass the aid to Gaza. So what I can wait after 7 months, after a huge number of martyrs, the majority they are women and kids, what they will do? Israelis, they are, I know, controlling, using the power everywhere. In the organizations, in UNRWA, in UNDP, in United Nations, in the governments. And I'm sure you hear the news each day. German send, Italian help, French support. So all of those countries who has a power, they could stop the war in somehow, but they don't want. Sorry, I... Sinceramente non vedo dei risultati positivi, perché quello che ho visto accadere a Gaza è fuori da ogni immaginazione. E noi forse in West Bank siamo abituati, a, ci abbiamo normalizzato, perché gli attacchi israeliani avvengono ogni giorno e quindi in un certo senso siamo abituati. Però quello che ho visto e che mi ha lasciato, che mi fa dubitare, che mi ha lasciato senza speranza, sono innanzitutto l'autorità palestinese che non ha fatto niente, non si è mossa in nessun modo, lasciando comunque che accadesse quello che è accaduto, e neanche contrastare in minima parte il fatto che arrivi supporto ad Israele. Questo anche non solo per l'autorità palestinese, ma ha detto anche l'OLP e anche tutti i paesi esteri, tutti quelli che si sono detti solidali con la causa palestinese magari all'estero, e i riferimenti non hanno impedito che arrivassero armi ad Israele. Inoltre, la seconda fonte di grandi delusioni sono le organizzazioni cosiddette internazionali per i diritti umani, in cui lui dice: io ho creduto profondamente e ho cercato, cioè anche ho lavorato con le associazioni per i diritti umani, e io penso ho un'associazione per i diritti umani, però quello che poi hanno fatto è non riuscire neanche a portare del cibo, dell'acqua dentro Gaza, neanche riuscire a proteggere quelli che sono i diritti delle donne, dei bambini, e che in un certo senso Israele dentro tutto, dentro, lui dice, l'UNRWA, UNDP, tutte queste organizzazioni, diciamo, per i diritti umani, cioè sono poi di fatto, hanno trasformato... Esatto, brava. E dice che il cibo dentro Gaza è diventato come una pistola, come un'arma sulla testa dei bambini, delle donne e degli uomini di Gaza. E in tutto questo, in più ci sono chi ha il potere veramente, quindi i paesi, gli stati esteri e tutti quelli che potrebbero fermare questo massacro, perché lui dice giustamente: non si chiama guerra questo è un massacro al massimo, o una pulizia etnica, e comunque non lo fanno. Yani, the only thing I can promise you is the voice from Gaza, the people. Because me and them, we are the same. We have the same promise and we have the same hope. Never ever we will give up. We know this kind of mentality, which is the Zionism, which is worse than Nazist. Maybe they took the Nazist agenda and mind, and they decorated with them issue to make it much worse. So me and Gaza's people promise all since it's happened 1948 until today, never we will give up, and we are living in a hope. We will transfer this hope to the next generation, as I took it from the past generations who lived in that time, to continue to resist until we exist. Ok, vado. Ti posso promettere però che le voci delle persone di Gaza, perché loro, cioè io li sento come me e come noi, verranno sentite, e soprattutto perché le nostre promesse, le nostre speranze sono le stesse e sono quelle, e queste rimarranno, perché noi non ci arrenderemo mai. E la seconda cosa che voglio dire riguarda, perché noi conosciamo bene, dice, la faccia del sionismo che si è presentata con la sua faccia più brutale. E lui dice che, cioè dice, che hanno preso il nazismo e l'hanno di fatto decorato, l'hanno messo in piedi, rendendolo ancora peggio di come era. E dice che comunque, nonostante questo, loro continuano a vivere di speranza e non si arrenderanno mai. Per il diritto a esistere e a resistere. C'è qualcosa? Yeah, this is not just words. I say it. I practice it. I have been in jail since I was 10 years old, and I will never stop, just until I close my eyes and I cannot open it. This is the point I can stop, because it's not my choice. Queste non sono solo parole, sono cose che io vivo e pratico, perché te lo dico, cioè io da quando avevo 10 anni che vengo messo in prigione, e non mi fermerò e non mi fermerò mai finché i miei occhi non si chiuderanno. Perché non è una scelta per me. Questo è importante, scusate. Non è una mia scelta. Don't be shy, Annie. You can ask anything. I have open mind, open heart. I just would like to ask you a few words about your point of view. About the intervention of the Arab states, that from our point of view, it's like no intervention at all. Gli ho chiesto quale, dal suo punto di vista, cosa ne pensa dell'intervento dei paesi arabi. Clearly, the answer is Arab governments, all of them, they are corruptions, as our Palestinian authorities corruption. And also they are controlled by money which is funded by Zionism in the world. If you look at, as for example, International Bank, who's the owner of the International Bank? The lobby of Zionism. So when you have this kind of fund, you have a conditions. And when you have a conditions, you are scary to use your chair and your power in Arab countries especially. And Netanyahu now, he's making the same copy, because he's 16 years in the government and he's afraid to fall out down from this chair. So as a Palestinians, we are not waiting anything from authorities, especially Arab authorities, because we knew. And we know the first country recognized Israel as a state, it was Qatar in 1948. So with all those countries, I can take one country. They are not recognized Israel as Israel, but all of them, they are running to make relation with the Israelis, not because they want, not because the relation it will be very helpful for the population. No, each country, each government, they belong to Arabs. They are thinking for money first, a power as a chair, and to stay longer in them authorities, and also to make other countries like Europe, USA, other countries or foreign countries to be acceptable for those. So we are not waiting anything from Arab countries. Allora, loro non si aspettano nulla dai paesi arabi perché sono poi come tutti i governi corrotti e tendenzialmente controllati dal denaro, perché poi chi sta dietro alle banche è la lobby sionista. E quindi tendenzialmente loro, già partendo da questo, non si aspettano molto, ma anche perché i paesi arabi, il primo ad aver riconosciuto lo Stato israeliano in quanto Stato è stato il Qatar nel 1948, e comunque tutti hanno la tendenza a creare dei rapporti, insomma, ad avere dei rapporti con Israele in modo tale da essere riconosciuti, anche se in una maniera estremamente corrotta. Anche dagli stati europei, cioè, quindi corrono tutti a stringere relazioni e a fare accordi con Israele anche per questa legittimità internazionale. E lui, se ho capito bene, dice che in realtà non va a beneficio della popolazione, ma che questi accordi e queste cose alla fine vanno a beneficio sempre dei pochi che veramente hanno il potere e che sono corrotti e che si fanno guidare sempre dal denaro. E non perdere il loro potere, tipo anche lo stesso Netanyahu comunque ha questo tipo di interesse, perché altrimenti rischia, dopo tanti anni e tantissimi anche casi di corruzione, il suo principale obiettivo è quello di rimanere dove sta. Esatto, ancorati ai seggi, ai posti del potere, ai luoghi del potere. E poi, ripetuto di nuovo, non ci aspettiamo nulla dagli stati arabi o che comunque questa cosa venga dalle autorità. Io volevo chiedergli, poi traduco io, se non hanno avuto un dubbio, questa è una cosa che mi assilla, è che sia stato troppo facile da parte di Hamas fare quello che hanno fatto, che gli hanno lasciato fare, e se non sia stata quindi una cosa, non dico organizzata, ma comunque accettata proprio per mettere in atto quell'agenda che loro hanno scoperto esserci già prima di questo terribile evento. I wanted to ask your personal opinion about if have you ever wondered if Israel has accepted the Hamas incursion as a loss that could be accepted in order to bring on the agenda you discovered they already had before to make a war, let's say, against you. I don't say they have organized it because maybe it's too much, but if they have let it done by Hamas, it was too easy. I don't think Hamas will accept any agenda or any agreement with Israelis for two reasons. First, as Islamic group, they don't want to enter in this kind of political conflict and recognize Israel as Israel, because they don't agree even for the an agreement which is signed between PLO and the Israelis. And by the way, they didn't enter, they refused Hamas and Jihad Islamic, the only two parts, to get in PLO and to be part from PLO, because PLO recognized Israel as a state. This is first. Second, after a years of Hamas fighting in a West Bank and after Oslo, I mean 1995 until today, they will not accept for those who supporting Hamas to be part with the Israelis. or agree with the Israelis to run any agenda inside Gaza. Lui non crede assolutamente che non sia possibile questa sorta di visione, proprio perché per Hamas, un partito comunque islamico, non è possibile, che non riconosce Israele, quindi non ci potrebbe essere questo, questo tipo di accordo, quindi non è avvenuto in accordo fra di loro. E inoltre sia Hamas che la Jihad non fanno parte dell'OLP, proprio perché l'OLP invece riconosce Israele, e quindi secondo lui questa cosa non è possibile. Adesso. And also if I remember as well, in 2017 it was on a conference in Egypt to connect PA, Palestinian Authority, and Hamas and El Jihad to finish the conflict between them, what's happening in 2007. And Hamas agreed to give a chance for PA to continue the deal to have a state for Palestine. But what Israel did in that year, or in 2018, they attack Gaza. When Hamas agree for the PA to continue, Israel, they don't want. They don't want. Even it's impossible to have two-state solution. And forbidden it will be one-state solution recognized only Israel, not Palestine. So in this direction, it's a plot from Hamas to continue dealing with PA or any political part belong to PLO. And having this conversation to facilitating the life inside Gaza. Quindi un'altra ragione è appunto questa, gli è venuto, diceva, c'è stata questa conferenza, questo incontro nel 2017, che doveva portare avanti un discorso antico di molti anni prima, e che riguardava proprio il riconoscimento di uno Stato palestinese, e Hamas aveva dato l'ok comunque all'autorità palestinese di portare avanti questi talk, questi discorsi, e con Israele, per vedere proprio il riconoscimento dello Stato di Palestina. E invece quello che poi è accaduto è che nel 2018 Israele ha attaccato Gaza, e quindi è chiaro che nel momento in cui dice, anche laddove c'era un tentativo di apertura per poi vedere la soluzione a due stati, invece Israele che non l'ha voluto, ed è chiaro che l'unica volontà è uno Stato solo, ma che per loro l'unico Stato che ci deve esistere è Israele, riconosciuto da tutti come Israele. Ti chiedo di... No, volevo chiederti qualcosa sui prigionieri. Prigionieri palestinesi, da poco è morto Walid, e, insomma, su come è peggiorata la loro situazione dopo il 7 ottobre, insomma, no? She wants to ask you something about political prisoners, specifically because she thought about the death of Walid, and yes, and she wants to know if the situation of political prisoners has deteriorated, is worsened, and what is the situation? Very good question. Now the Palestinian prisoners are leaving. Not only in the hell, it's the extra down of the hell. just today I show you I show Julia one of the videos I could catch it how the Israeli security working with the Palestinian prisoners. Now there is nothing in them rooms, so they are sleeping in the ground, no food, no water, no shower, no health care. They are facing five times accounted in the room, and each time they have to lay down, and they are all the time catched by them legs, one by one. There is no visiting for the family, no visiting for the lawyer. The majority, they are under administrative detention. Dice che la situazione è estremamente peggiorata, che già prima era l'inferno, ora è ancora peggio. E, ci sono video che girano in rete di come l'esercito israeliano tratta i detenuti palestinesi. E ci sono, fanno queste incursioni nelle celle che sono vuote, non c'è nulla. Cinque volte al giorno urlando con cani che abbaiano e i detenuti sono per la maggior parte sono in detenzione amministrativa, quindi senza processo, ma chiusi lì dentro senza prove, senza nulla, e devono buttarsi a terra e sono anche legati uno all'altro con delle catene, tenere le mani basse e le teste basse. Also, this is not the only things they are doing with the Palestinian prisoners. They have to be checked naked all the time. They can be under the rain in the hall. Doesn't matter. They are peeing each time when there is a count, so they are peed five times in a day. It's unbelievable picture you can imagine. Who remember Guantanamo? Do you remember Guantanamo? It's Guantanamo doble. It's double of Guantanamo's issue. Prima ho dimenticato di dire che ovviamente non ci sono visite da parte dei familiari, vengono buttati sotto la pioggia, vengono picchiati più volte durante il giorno, e in sostanza, se c'è qualcuno qua che si ricorda di Guantanamo, questo è raddoppiato, la situazione per loro è raddoppiata. For Walid Dakka, I met this guy in 2004 when I was in the prison. He was very intelligent, gentleman, human man. Walid Dakka, since 15 years ago, he got cancer. And because of the bad condition of healthcare inside the Israeli prisons, his health started to be worse and worse. He finished his judged 3 years ago, finishing 32 or 33 years in a prison. But they gave him 3 years more. After 2 months, I think he should release, but he died before he released because of his health problem. And this is not only what's happened with Walid Dakka. In the same day they present Walid Dakka's death, his family in Ara, in land 48, they made like a little place to receive people, the supporters for the family, and you know, to give support. The Israeli soldiers and police, they attack his brother home. They punished his family. They arrested the youngest people who was there in that place. They shooted tear gas bombs inside the house. Many women got injured because they are old, they couldn't run away from this tear gas and sound bombs. And it was really mess situation. Just to didn't make a place to support or people they can support Waleed Dakka's family. So now, if anyone released, any Palestinian prisoner released from the prison and his family making like welcoming time, they turn back, they arrest the same guy and his family. Allora, lui dice di aver incontrato Waleed Dakka nel 2004 e che in prigione e che Waleed era, dice, però era un uomo molto intelligente, di grande umanità e spessore. Gli avevano dato 33 anni e poi lui 15 anni fa gli è venuto il cancro e a causa delle pessime condizioni della diciamo come si dice sanitarie e di possibile assistenza medica nelle carceri israeliane la sua condizione si è aggravata sempre di più e quando poi doveva essere rilasciato perché comunque il tempo era finito gli hanno dato 3 anni in più. E lui è morto quando è morto adesso che mancavano 2 mesi prima del suo rilascio e quindi e diciamo in corrispondenza di questo la sua famiglia ha organizzato nelle terre del 48 questo incontro, questa possibilità di ricordarlo, di commemorarlo, di possibilità di mostrare supporto a lui e alla sua famiglia. E che l'esercito israeliano, cioè gli israeliani, comunque hanno attaccato questo incontro, hanno attaccato il fratello di Waleed e in particolare sono entrati e hanno buttato i gas lacrimogeni e altri bomb sound bombs che sono, come si possono dire? Sono sempre bombe stordenti, grazie, e in particolare su tutti, i bambini, anziani, le donne anziane non sono riuscite neanche a mettersi in salvo, sono rimaste scosse e ferite e questo succede e succederà anche e per altri casi, tutti i casi, anche solo di rilasci, quando un prigioniero viene proprio rilasciato e può, cerca di tornare poi dalla sua famiglia, si cerca di celebrare questo momento, questi momenti di gioia vengono sempre interrotti e le persone vengono continuamente attaccate. E sto dimenticando qualcosa? E arrestate di nuovo, esatto, questa è la parte più importante. Questo adesso è meglio, cioè quando vengono rilasciati non è possibile festeggiare questo ritorno. Altre domande? Vabbè, faccio prima in inglese. Hi. I wanted to ask you what is the situation in West Bank now? Since October the 7th, so we know it got worse, but if you can give maybe some example. And also if you think that, I know there is a fear that the West Bank will be next. So what is happening in Gaza now can happen in West Bank as well. So what is your thought about that? Gli ho chiesto se ci può raccontare un po' com'è la situazione in West Bank. Sappiamo tutti che è peggiorata, però se c'è qualche esempio, diciamo, più nel pratico e c'è un po' un sentore che la West Bank possa essere il prossimo passo, quindi possa succedere in West Bank quello che sta succedendo a Gaza e un po' qual è il suo parere, ecco. West Bank is not far away from Gaza situation. We had before 7th October 2-3 times in a week attacks from the Israeli soldiers or IDF. Now we have each moment attack in Palestinians areas, especially for camps for refugees, because they recognize, the Israelis recognized the camps of refugees, they are the power of the reaction. It's very, very complicated situation in West Bank. It's very hard situation in different sides, society problems or condition, economically, and attacking or security condition. In economically side, people in West Bank, we know, we have around 400,000 Palestinian workers was working inside Jerusalem. Since 7th October, no one work. And this mean is 1 million family, they are get help from this job, because each one of this worker helping or opening his house and his parents or brother or, you know, so it's mean the double of the number. The PA or Palestinian Authority governmental employees, they have no salary. They are getting like 50-60% from them salary, and this is not covering anything. The prices of the need basic or basic needs start to be very high, so no one can buy. For the security, just this night was big attack for all West Bank cities, and this is happening daily, but last night it was very, very, very big or a huge attacks. They attacked the Haisha camp and Beit Lahem, Ramallah, Tul Karim, Jenin, all the Palestinian cities, sometimes to arrest someone or a group, but most of the time is life training for who's involved in new in IDF, and also with international soldiers, like American, British, I don't know, they are mixed. They are teaching them how to attack crowded places. As I mentioned before, there is no limit law to didn't shoot. They have open decision from the Ministry of Security, Ben Gafir, to kill anyone not injured. Since 7th of October, no one get injured from the plastic bullet or gas bomb or, no, it's a live bullet. And they are choosing the up part of the body. Last Friday was big attack in Tul Karim in a camp. It's called Nur Shams camp. They finish it today, this morning. The result, 14 martyrs, around 29 person get injured. I think 30 or 40 got arrested. 5 houses destroyed, it, bombed. All the constructions, roads, everything was demolished by bulldozers. And this is happening also daily in Jenin, Nablus. This is the fire line, I can say it, in north. In the middle, Beit Lahem, Jericho, Hebron, little bit less, but daily attack. Less react, but daily attack. And also PA is a partner with Israelis to make much control for our Palestinian fighters. So last 3 months until today, Palestinian Authority arrested many fighters and they put them in a Palestinian prison because they are fighting Israelis when they are attacking. I can... No, no, it's okay. I forget myself with Bravo. Ok, prima l'esercito attaccava in West Bank soprattutto i campi profughi perché sono ritenuti uno dei maggiori luoghi di opposizione e resistenza e attaccava 2-3 volte alla settimana. Adesso gli attacchi avvengono quotidianamente e non c'è più limite orario, qualsiasi orario del giorno o della notte. Prima erano molto di più la notte e sono spesso anche dei training che fanno per l'esercito, quindi per le nuove reclute dell'IDF e anche per le reclute internazionali che sono americane, inglesi, insomma svariate. l'esempio fa l'esempio del campo profughi di Tulkarem. C'è stato un attacco molto forte che è iniziato venerdì ed è finito stamattina, ed è uno dei peggiori attacchi che ci sia mai stato comunque negli ultimi anni, perché ci sono stati sono state demolite varie infrastrutture, diverse case, sono stati fatti tra i 30 e 40 arresti e 14 martiri. E questo avviene ormai abbastanza frequentemente, soprattutto nel nord della Cisgiordania, della West Bank, nelle città come Nablus, Jenin, che sono ritenute appunto ancora molto forti come centri di resistenza, un po' meno nelle altre, ma comunque avvengono anche giornalmente a Betlemme, a Gerico, adesso non so se dimentico, a Hebron, quindi questo è come la situazione è peggiorata. Esatto. Ah, ecco. No, però non so se mi ricordo. No, no, vabbè, lui dice esatto. La situazione economica, perché ad esempio c'erano svariati lavoratori che dalla Cisgiordania si spostavano in Israele e il loro stipendio sovvenzionava le intere famiglie, ma dal 7 ottobre a nessuno. Un milione di famiglie dal 7 ottobre non è più permesso loro di entrare in Israele e lavorare, quindi anche a livello economico, oltre a essersi alzati i prezzi dei beni di prima necessità, del cibo, c'è anche questo fatto che molta gente non può lavorare. Poi io aggiungo che una cosa che mi ha detto lui, like Bethlehem is living about tourism, they are not working anymore like this. But so you understand what I'm saying? Okay. aggiungo, perché me lo diceva in questi giorni, che una città come Betlemme vive di turismo e già col Covid aveva ricevuto una bella batosta, ma dal 7 ottobre non ci sono più turisti, quindi hotel, ristoranti, qualsiasi cosa non sta lavorando, quindi la situazione economica è peggiorata e anche le condizioni. Sì, poi un'altra cosa importante, lui aveva sì, ci ricordiamo le cose un po', ha detto che adesso, dal 7 ottobre, il ministro della difesa ha dato l'ok, il via libera, a sparare, e praticamente, israeliano ovviamente, Ben-Gvir, quindi adesso i soldati possono sparare qualsiasi persona, civile, armata, non armata, e lo possono fare da qui in su anche, con non per ferire, ma quindi proprio per uccidere, con proiettili veri e non proiettili, diciamo, di gomma fatti soltanto per farti male alle gambe, ma cioè in un modo. E quindi queste uccisioni stanno avvenendo in continuazione. And the next part, it's coming from the settlers. Settlers, they are start to be much violence on a Palestinians people. You want to translate direct? No. Bene. So 10 days before, some of the group, they was in Ain Yabrud village. It's near Ramallah city. It's funny and sad story. Sorry for that. What's happened before 10 days, it's one of the settlers, he's 16 years old. He was missed and they found him died in the mountain. So the settlers, because settlement, it's neighborhood with this village, Ain Yabrud, they start to publish in them WhatsApp groups and social media groups, Palestinian kidnapped one settler and they killed him and throw him in the mountain. In fact, yesterday, the result of the health report, it wasn't kidnapped and it wasn't killed by Palestinians. But what the settlers did in the 10 days, they attacked the village, they killed 4 people, they injured 19 person, they burned 20 houses, they burned 30 cars. So you can imagine how much hate they have to attack these peace people who's living in this village from the fake news, first. Second, they are full supported by IDF. All the settlers who's making groups, and especially where is the Palestinians areas or main roads used by both Israelis and Palestinians. If you pass these roads, you are praying to the God 20 years from them attack, because they are attacking Palestinian cars. They can recognize it by the mark of the car, the label. Also, they start to be much criminals because they are allowed it from Ben Gafir, and they got gifts from Ben Gafir, which is a guns. Before, they was attacking with stones and like white knives or white weapon, they call it. Now they have real weapons for free from Ben Gafir to kill more Palestinians, and they cannot be judged in the Israeli courts. Fa l'esempio venuto non molto tempo fa del in Yabrud, che è vicino a Ramallah, dove era scomparso un colono di 17 anni, e subito tra i coloni ha iniziato a spargersi la voce, insomma messaggi, insomma raccolta, che era stato rapito e ucciso dai palestinesi. Quindi i coloni hanno organizzato un vero e proprio attacco a Yabrud, hanno attaccato le case, bruciato le case, le macchine, hanno ferito svariate persone, e tutto questo avviene in tutta per 10 giorni è andato avanti questo attacco, facendo anche dei martiri. E, solo che se prima l'IDF, diciamo, metteva una sorta di limite, faceva in modo che non ci fosse troppo contatto tra palestinesi e coloni, adesso l'IDF ha completamente lasciato via libera ai coloni. Per di più, il ministro Ben-Gvir dal 7 ottobre in poi ha deciso di donare come regali ai coloni delle vere e proprie armi, pistole ma anche fucili, in modo tale che loro si possano difendere, come dice lui, dai palestinesi. E, quindi, e queste persone poi adesso ormai hanno il via libera per fare qualsiasi cosa, non c'è un limite, e tu sai che se superi questa linea ti può accadere di tutto. E loro riconoscono anche le macchine palestinesi, lo riconoscono da praticamente una targa, da un segnale, dalla targa, sì, e quindi le attaccano. Quando, cioè, quindi, e non usano più, che lui aveva definito le armi che usavano prima, cioè i sassi o altro, armi bianche in un certo senso, adesso hanno le armi vere e proprie donate dal ministro, e poi soprattutto qualsiasi cosa facciano non vengono poi sottoposti a giudizio nei tribunali, quindi non completa impunità. Oltretutto lui aveva anche detto che poi è venuto fuori comunque nell'aneddoto raccontato di prima, che il colono trovato morto, poi alla fine è venuto fuori che proprio dai report della, cioè health report, quindi dal medico legale, grazie, che in realtà non era stato rapito e ucciso dai palestinesi. Però questo vi fa capire che per 10 giorni è stato fatto questo dai coloni, quindi quanto odio devono avere in corpo queste persone, diciamo, e questi coloni, per ammazzare e per fare questo in nome di una notizia falsa che è stata diffusa. E qualcos'altro? No. Ho bisogno del microfono. Io volevo porre questa domanda che magari non è proprio appropriata, ma i comitati, cioè nella resistenza in Cisgiordania, i comitati popolari di autodifesa che sono attivi, perché si vede nei punti più importanti, che tipo di rapporto hanno con l'autorità palestinese? No, da questo punto di vista, sono chiaro? He wants to know the self-defense committee in West Bank, which kind of relationship has with the PA? There is 2 points. There is people who belong to PA and have a good relation because they are taking salary. If they are working or not working. Quindi ci sono persone che, cioè un primo punto comunque di questi rapporti. Uno sono le persone che lavorano con l'autorità palestinese, quindi percepiscono un salario. But the majority of people, they don't believe even for PA because they are corruption from the beginning. La maggior parte delle persone non crede nell'autorità palestinese perché sono corrotti dall'inizio. Even though those people who belong to Fatah organization, which is the popular in West Bank, anche se molte di queste persone appartengono al Fatah, che è comunque un'organizzazione molto popolare in Cisgiordania, they are disagree with Palestinian authority them agreements and what they are doing in a West Bank. Non sono in disaccordo con quello che l'autorità palestinese sta facendo in Cisgiordania. And now there is a big campaign. It's start to be created. This is a new. To ask Palestinian authority to move from West Bank to abroad. E ora c'è una nuova campagna, che questa è una cosa nuova, non potete saperla, ma di far spostare l'autorità palestinese dal territorio della Cisgiordania verso l'estero. We found, we knew it before, but we was busy for reacting the Israelis attacks, but now it's clearly after what's happened in Gaza and what's happening now in West Bank. Lo sapevamo, avevamo un'idea anche da prima che questo, insomma, questo fosse il piano, però eravamo, diciamo, molto presi con tutti gli attacchi degli israeliani continui. Però adesso, vedendo quello che è accaduto a Gaza, capiamo che è questo il piano. The minimum thing they can give it to the people in a West Bank is to save them lives, and PA they couldn't. La cosa minima, cioè il livello più basso che le persone dovrebbero poter avere in Cisgiordania è poter avere salva la propria vita, e questo l'autorità palestinese non riesce nemmeno a garantirlo. And they approve it when we send as activists, we send a letter to the Mahmoud Abbas, the president and his government, is okay, we know you cannot stop IDF to enter Palestinian areas, please send the 72,000 soldier to protect people from the settlers. Ok, noi come gruppo di attivisti abbiamo scritto questa lettera a Mahmoud Abbas, che è ovviamente il presidente, e chiedendogli di fatto, ok, voi non potete garantirci che l'esercito israeliano che non entri, perché continua ad entrare nei nostri territori e ci attacca. Però almeno, dico, per favore, mandaci 72,000 soldati, insomma, una forza per proteggerci dai coloni. The answer was clear. He cannot touch any Israeli. La risposta è stata chiara. Lui non può toccare nessun israeliano. And you want more funny things? It's happening yesterday. E vuoi sapere di più? Una cosa divertente, diciamo, che è successa ieri. He took two important decisions. Sì, ha preso due importanti decisioni, due decisioni molto importanti. He retired the previous authority and he renewed it with a new authority with a new prime minister. He has more than 30,000 file of corruption cases. Ok, di fatto ha rinnovato una nuova autorità rispetto a quella di prima. Questa cosa non l'ho capita molto. Ha mandato in pensione e ha dato una un nuovo incarico a questo primo ministro, che però ha 30,000 cause di corruzione. And the majority of these files, it's belong to stealing monies, funds, selling lands to the Israelis, fake companies, extra. La maggior parte di queste cause che lui ha contro riguardano appropriazione di soldi, svendita di terra agli israeliani, e l'ultimo non ricordo. Selling lands for Israelis and fake companies to own more money. Ah, e creare compagnie false per avere altro denaro. And the second decision, he asked or ordered the previous minister to start preparation for the new elections, the parliament and the president, in this time when Gaza is bombing. E l'altra decisione che ha fatto è, ha detto al ministro dimissionario di preparare delle nuove elezioni che non avvengono in Cisgiordania da un bel po'. E proprio adesso che c'è questa situazione in Gaza. This is the democracy of Mahmoud Abbas. Okay. About the project? Yeah, about the project, because I took a long time with you. I can speak until morning. I don't have any problem. But because of you. No, una domanda. Wait, there is another question. No, so I'm glad to see you. I'm glad to see you. So, but now in West Bank, there is no chance for the another. The another party. I mean, I remember Mustafa Barghouti, who there is any minimal chance to change now the situation to ANP or because PLO is a corruption, the main house for hosting all the political parts. It's impossible to be far away and take a place as a decision maker in Palestinian Authority. Because it's like protocol. First, you have to enter to PLO. Second, to be accepted from CIA, Mossad, others. After, you have to agree for all the agreements signed by PLO. And maybe you can get a chance to be part as a decision maker, but this is forbidden because Hamas and Fatah, they are the hugest popular in Palestine. But I'm sure if there is an election would come, I'm sure Hamas will win again. Not because Hamas, they are a popular. Because even in West Bank, when they won in 2006, they won because of West Bank, not because of Gaza. But now, what's happened in 2006 is as Fatah people who disagree with the agenda of PA and Fatah itself, they voted to Hamas. And this will happen again if there is election. Allora, nella prima parte ha detto che non è possibile una cosa del genere proprio perché è tutto un sistema molto corrotto e quindi o fai parte dell'OLP o altrimenti di fatto non vieni assolutamente riconosciuto. Quindi in qualche modo tu devi prima essere accettato dall'OLP, dall'autorità palestinese. C'è un secondo passaggio in cui anche tutti i servizi di intelligence devono riconoscerti e bisogna accettare tutti quanti gli accordi e poi mi sa che mi sono persa io. E poi si è spostato dicendo che comunque per quanto alla fine Fatah e Hamas restano i due principali più popolari anche in Cisgiordania. Quindi per il discorso delle elezioni poi ha detto che se dovessero esserci nuovamente elezioni vincerebbe comunque di nuovo Hamas e ha detto che comunque quando ha vinto nel 2006 è stato anche per i voti, cioè insomma per il West Bank, non solo per Gaza, che ha vinto. E poi ha detto anche che c'è tutta una parte del Fatah che ha cominciato a essere in disaccordo e ad avere dei problemi all'interno dell'organizzazione, che quindi si è spostata verso Hamas e basta, credo. C'era altro? No, abbiamo già detto. To understand how it's work inside this corruption authority, who signed for didn't release Marwan al-Barghouthi is Mahmoud Abbas and his government. This is since 2011. Because they knew if Marwan al-Barghouthi will release, he will back to ask for the Palestinian rights from the beginning. So anyone doesn't agree with this agenda, PA agenda, he will never have a chance to be a decision maker. E per dire quanto è corrotto quindi questa realtà di Mahmoud Abbas, sono arrivati al punto anche di non firmare degli accordi per poter rilasciare Barghouthi. E questo accadeva nel 2011 perché erano ben consapevoli che se lui fosse uscito poi dopo si sarebbe battuto comunque per i diritti dei palestinesi, avrebbe avuto molto seguito e quindi a loro non conveniva. C'era altro? So far away from the NGO organizations and my organization I belong in the Dehesha camp, we thought as six persons, we are youth from different cities in West Bank. We start to think about how we can give a hand for Gaza's people far away from this NGO's organization because all the eyes on this organization is now by Israelis. So we created a team and we did two projects, one in December and one in February. We could collect some funds and bought medicines and medical supplies. And we have a good relation and good contact, strong contacts with Qatar Red Crescent. And we was meaning to choose this organization. Allora, per quanto riguarda il progetto per cui siamo qua stasera, ne fanno parte lui e altre sei persone sparse per la West Bank. Hanno deciso, partendo già da un lavoro pregresso di associazioni culturali che comunque lavoravano per il proprio territorio di mettersi insieme e fare qualcosa principalmente per Gaza, in una maniera che fosse completamente differente, lontana dalle ONG, proprio perché in questo momento tutti gli occhi sono rivolti sulle ONG e quindi anche sotto il controllo del governo israeliano, dell'esercito israeliano. E, Quindi si sono unite queste persone, hanno già fatto un primo progetto a dicembre, uno a febbraio, e praticamente hanno chiesto anche intrapreso questa collaborazione con la Red Christian del Qatar, ed ha questo ha un significato molto importante. We choose it because we know Qatar is the only country making the negotiation about the Israeli prisoners and Palestinian prisoners and this exchange. And this organization is the only organization can get a permission to send aid by Egypt to Rafah and to Gaza inside. L'organizzazione che ha collaborato nel momento dello scambio dei prigionieri ed è l'unica che ha il permesso di poter inviare, portare degli aiuti tramite Rafa e quindi tramite l'Egitto. Ripetiamo che la mezzaluna rossa del Qatar, giusto? So the second organization is the same but Palestinian Red Crescent. And this is, we are lucky because we can just buy the things and we have free shipping by this organization. They send it to Jordan, from Jordan to Egypt. So it's clear information and data to follow our sending the first container and the second container. It was clean and it's reached to the hospitals, and this is what we missed in the beginning of sending aid. It was missed in Rafah border, and some groups from Egypt and from Gaza was stalling. The aid is coming, entering to Gaza, and it was very big miss. But with this organizations, we can be sure it's arrived to the right place. This third project, sì, l'altra realtà con cui si collabora in questo progetto è la Mezzaluna Rossa Palestinese. E questo avviene per garantire l'approvvigionamento di cibo, che quindi viene mandato in Giordania e poi dalla Giordania in Egitto. E noi, loro sono sicuri che questo cibo sia arrivato, ad esempio, negli ospedali, e questo perché attraverso poi il supporto della Mezzaluna Rossa e dei loro partner, perché invece c'erano degli altri gruppi in Egitto o di Gaza, che comunque nella zona, nel Rafah border, che rubavano questo cibo e questi aiuti. E quindi bisogna avere dei contatti fidati. Esatto. So this third project, we took a decision to didn't buy medicines and medical supplies for two reasons. One, it's now most of the countries like Emirates and other groups or Doctors Without Borders, all those, they succeed to enter to Gaza and make surgeries and bring some medicines. Second, we was looking for what people now is much need. Food, they need food, but most of the containers of the food is stuck in Rafah side. So it's risky to buy food and let it under the sun, under this weather, and could be not used when it's allowed it to pass. Hanno deciso in particolar modo di occuparsi di medicine, comunque qualcosa legato alla beni di prima necessità legati alla salute, per avere la sicurezza che ad un certo punto entrassero. Primo perché il cibo, successo molto, molto spesso in questi mesi, che rimaneva nei camion fuori e alla fine andava a male. Invece in questo modo si sono chiesti quali sono le cose di cui hanno bisogno a Gaza, appunto le medicine, possono inviarle e in qualche modo hanno la sicurezza che prima o poi arrivano e hanno una data di scadenza un po' maggiore. Però ho capito che lui ha detto che gli Emirati e i Medici Senza Frontiere sono riusciti a far passare delle medicine a Gaza, sì. Giusto? Second point is we was following some reports from international organization in the ground in Gaza, and by chance Al Jazeera was reporting or making a report about the situation and the condition inside the hospitals after Shifa got attacked from the Israelis. So we found our goal is to buy milk for a newborn, milk for babies under age 1 or 2 years, and baby sheets, woman needs when they get birth, like, you know, woman sheets, clothes, covers, all this stuff. Because we found also from the Life report and Al Jazeera report is because the babies didn't change daily, they got sick more and it's fast die. Even the women's is the same. And because of the hard weather, winter weather, all the clothes and the covers was disappeared and not used, and especially for people who is disappeared from north to south. Stavano, loro sono stati molto a seguire i report di Life e Al Jazeera proprio per capire di che cosa avevano bisogno e soprattutto anche dopo l'attacco che c'è stato all'Al-Shifa Hospital, uno dei loro obiettivi era quello di far arrivare a Gaza il latte per i neonati e tutti i beni necessari per i bambini, sia appena nati ma anche inferiori a 2 anni, che hanno delle necessità diverse, ma soprattutto loro hanno visto attraverso questi report che i bambini avevano bisogno di essere cambiati spesso e in alcuni casi morivano proprio perché non c'era modo di cambiarli, e anche tutto quello che riguarda anche per le madri che danno che partoriscono, tutto ciò che poteva servire loro in quel momento. So that's why we was focusing in this specially milk for newborn and babies, because most of the aid food is coming for adults, and very few donors they was sending especially for babies and allergic babies, because some babies they born with allergic to didn't get like normal milk, or they have special milk to drink, and or even for special we call it diapers, which is baby sheets. Is not like hugs or I don't know the names. I have the list, but I don't remember the name. But them skin is sensitive. E allora ci si sono resi conto comunque da questi report e dalle informazioni che avevano che il cibo che arrivava era cibo particolare, cioè in particolare per gli adulti, e che quindi c'erano poche cose specifiche invece per i bambini, e in particolare i bambini con delle allergie e dei bisogni insomma più particolari e specifici, e anche ad esempio i pannolini. So yeah, this is briefly our project. We know as small group, 6 persons, it's very, very risky, because you can get arrested or punished from the Israelis because you are giving a hand for Gaza. But yani, we take this responsibility. This is the minimum we can do. You cannot post anything. You cannot follow any demonstration. You cannot react as well. But this is the minimum I can do, me and my group. Sì, dice che lui e il suo gruppo comunque hanno preso molto seriamente questa attività, questo progetto, un po' perché si sono resi conto che molte cose non le potevano fare, non potevano postare, però dicevano il minimo che possiamo fare con responsabilità, anche se è rischioso, perché comunque se gli israeliani scoprono che tu stai aiutando a Gaza le conseguenze sono gravi, è di portare avanti questo progetto per rispondere ai bisogni e alle esigenze che arrivano da lì. E yeah, this is what I said, Yani. As me and others, we respect our word. So this is one of making our promises stay in life. When we promise is like resist to exist, this is one of resistance we can do. okay, we cannot like fight as well as they are doing in Gaza, but this is the minimum with a mind, with a hand, with collecting supports. This is continuous resisting against this, not occupation, this is a colonizing project. Questo è quello che possiamo fare, rispettiamo questo lavoro, ma soprattutto è un atto di resistenza. È un atto di resistenza, altre cose non lo possiamo fare, non possiamo combattere, però possiamo continuare con questo progetto ed è un atto di resistere per esistere. E resistiamo contro non quella che non è di fatto solo un'occupazione, ma è un progetto coloniale. E resistiamo con le nostre menti, con i nostri cuori, con le nostre azioni in ogni singolo momento. Ho dimenticato qualcosa. Thank you. No, I say in English than in Italian. No, I just want to say something that I noticed that sometimes when they do humanitarian projects or they want to give aid and support in a specific area, they don't ask exactly what people need, but they just, as we saw with the parachute things, etc. And sometimes this is not what people need. They need something different, but they are not listened to. And so I really appreciate the way you are working, because this is important. Ho detto che spesso nell'aiuto umanitario non c'è veramente un ascolto di quelli che sono i bisogni delle persone, ma c'è più un mando quello che ho e quello che ho a disposizione. E spesso abbiamo visto anche con gli aiuti paradocadutati che in realtà quello non è stato per niente d'aiuto, e quindi ho detto che apprezzo invece la loro modalità, che è più dal basso e in ascolto dei bisogni delle persone. But if you want to add more, it's not about adding, but usually I don't work like without searching and knowing what I'm doing, and this is the first point I learned in my life. So when I focused in this subject or in this case for babies and women, it's not coming from somewhere. No, I found a report from the Human Rights Watch. In this few months, 50,000 women will get birth, will put babies. So 50,000 plus the babies, they are already born. During this 6 months, 7 months, they need something. They need something is missed in all this aid. The aid which is coming from parachute, it was breakfast, lunch, and dinner. We saw the packets, and by the way, 100 people, they are killed by this parachute. So I have to focus on something, and I have to make the research before I start to do it. È comunque quello di studiare, di informarmi prima di andare a fare una cosa, e quindi ho letto questo rapporto del Human Rights Watch che diceva che 50.000 donne avrebbero partorito, senza contare poi i bambini che c'erano già prima, quindi era chiaro che questo era un bisogno molto visibile e tangibile. E poi ha detto che quell'aiuto che è arrivato dai paracadute era colazione, pranzo e cena per un giorno, e oltretutto delle persone sono state uccise, morte comunque per andarlo a recuperare, e quindi questo non è un aiuto. I really want to thank you Armando to be here, because it's very risky for him and not easy to cross the border every time. It's not like us, we can go away. And also Voglio ricordare che la cena di questa sera va completamente a sostenere il progetto di cui vi ha parlato stasera. Poi passeremo noi a chiedere questo piccolo obolo di 10 euro che poi andrà appunto a lui e al suo progetto. Quindi buona continuazione di serata.